approvazione che c'è stata ieri dell'assessorato. Ciao, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte. Allora, diciamo che per i movimenti di lotta all'abitare non c'è mai pace, non si riesce mai a trovare una soluzione. Senti, allora, ieri avete occupato per l'ennesima volta l'assessorato, se ti va insomma di raccontarci un po' com'è andata e quali i motivi, insomma. Sì, speriamo di non dare pace a questi signori, insomma, finché non avremo riconquistato tutto quello che ci spetta. Ieri abbiamo messo in campo questa nuova iniziativa, occupando e bloccando gli accessi dell'assessorato alle politiche abitative del Comune di Roma, per denunciare da una parte la latitanza completa, insomma, del Comune di fronte al disastro abitativo di questa città. Un comune che non si è curato né di esprimersi né tantomeno insomma di fare il suo dovere, cioè di intervenire cercando di costruire delle soluzioni in questi mesi di occupazione e di scontro sul proprietario della casa, neppure ha dato offerto un'alternativa, lo ricordiamo, ai nuclei che sono stati sgomberati a Sette Camini, a Ponte di Nona, per cui insomma continua una latitanza completa ed un atteggiamento insopportabile di questo sindaco nei confronti di chi vive un problema sempre più grave ed esasperato. E dall'altra abbiamo sottolineato politicamente insomma la grande contraddizione di un bando che è stato appena pubblicato per una nuova graduatoria insomma per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, cioè alle case popolari. È un bando truffa perché diciamo fa credere, illude tantissime persone che fare domanda al bando per le case popolari poi possa portare ad una soluzione del proprio problema, insomma, di uno sfratto o di un affitto che non si riesce a pagare, di una situazione di emergenza. Invece sappiamo benissimo che non ci sono programmi abitativi se non poche gocce di case, per cui abbiamo diciamo fatto una prima iniziativa che denunciava anche questa frode elettorale, diciamo così, in clima elettorale portata avanti dal sindaco Alemanno e dal suo assessore Funari. E dopodiché abbiamo posto alcuni problemi legati alle vertenze che avrebbero dovuto trovare soluzione in questi mesi, in virtù anche dell'occupazione e presidio degli alloggi di via Rivisondoli. Non so se gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio ricordano della protesta, insomma, anche legata, come dire, alle situazioni più antiche di emergenza che da troppo tempo aspettano casa, e in particolare la questione degli alloggi che la società CAM, che ha saccheggiato Casa Albertone, avrebbe dovuto mettere a disposizione del Comune di Roma. E per cui insomma, abbiamo tribolato molto, ci sono stati momenti di tensione, in virtù di che cosa? Del fatto che non c'era dialogo con l'assessore alla casa, che si è curato bene dal venire, e addirittura, come dire, della chiusura rispetto a un incontro insomma che poteva portare a mettere quantomeno sul piatto i temi e le questioni. Alla fine c'è stato un incontro con la segreteria dell'assessore, i capi dipartimento delle politiche abitative eccetera, che ha, diciamo, speriamo, smosso un po' le acque, accelerato diciamo la procedura di acquisizione di questi alloggi per le famiglie diciamo che da più tempo aspettano insomma la casa popolare. Sono 30-35, non ricordo bene. E per il resto, come dire, su questo stringere un pochino per affrontare anche i temi più generali, di appuntamento a un martedì prossimo ad un incontro in assessorato a cui dovrebbe essere presente anche la segreteria il capo segreteria del sindaco, per cui andiamo avanti. Insomma, è chiaro che per noi conquistare a questi tavoli delle soluzioni rafforza una battaglia che è legata alla soluzione di un bisogno, insomma, quindi che non deve mollare la presa, però sappiamo bene che non servirà a risolvere i problemi che abbiamo di fronte se non ci sarà un investimento sulle case popolari, sul recupero della città, per cui andremo avanti sicuramente ponendo il problema sotto i palazzi, insomma, chiamando questi signori alle proprie responsabilità, ma lo proporremo nella città difendendo i picchetti antisfratto e continuando ad occupare i 200.000 alloggi sfitti, insomma questa vergogna a cui porre fine. Dopo la giornata, insomma, importante del 6 dicembre scorso, in cui i movimenti lotta all'abitare sono scesi in piazza, hanno fatto tante occupazioni, e volevo, insomma, se ci potevi anche dare un aggiornamento su quello, come stanno procedendo, o se ci sono minacce di sgomberi. Ma sì, la minaccia è sempre presente. Adesso non so se questi signori proveranno ad intervenire nuovamente in queste settimane, no, di stretta preelettorale, però la minaccia c'è, e soprattutto non c'è nessun tavolo, nessun confronto, neanche su posizioni, no, giustamente diverse con questa amministrazione. Questa amministrazione, se non la vai proprio a prendere, ripeto, non si cura del problema, non ha detto e fatto nulla dopo il 6 dicembre, per cui resistiamo, ma non solo resistiamo, prepariamo sicuramente nuovi momenti di lotta e di iniziativa sulla città, perché o questo conflitto lo si porta avanti, lo si porta fino in fondo, oppure chiaramente nulla cambierà. Insomma, dipende sempre più da noi riprendere in mano le nostre vite, auto-organizzarci e anche riprenderci direttamente queste case se continueranno a non darcele. Questo credo che sia il messaggio, no, che deve radicarsi sui territori, deve viaggiare nella città e deve portare a nuove iniziative. Già ci sono dei cortei, insomma, che denunceranno speculazioni e saccheggi sociali, cioè il 16 colgo l'occasione di febbraio, cioè sabato della settimana prossima, un corteo che attraverserà le strade dell'undicesimo municipio, toccherà la speculazione possibile, no, visto che è stato anche un luogo dove è avvenuto uno sgombero dell'ex deposito ATAC in via Alessandro Severo, cioè vicino al metro San Paolo. Poi passeremo per il CTO, dove va avanti l'occupazione e la lotta non solo dei lavoratori ma dei cittadini di questa parte di Roma, e arriveremo fino all'ex Fiera di Roma per dire che non possono permettersi più di costruire saccheggiando la città, come si vuole fare sulla ex Fiera di Roma, insomma sulla Cristoforo Colombo, 300.000 metri cubi senza passare neanche per le discussioni in aula Giulio Cesare in Campidoglio o nel Parlamento della Regione Lazio, ma approvare direttamente con queste norme eversive, insomma, del piano casa Polverini Ciocchetti, 300.000 metri cubi di case di lusso e di strutture commerciali. O si fanno le case popolari, ma si fanno anche gli asili, gli spazi sociali, culturali, i servizi che la città richiede e reclama, oppure ne vedranno delle belle. Quindi sabato 16 è sicuramente un altro appuntamento importante per allargare ancora di più e rilanciare la mobilitazione dal basso.